Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko, un saluto da Elisio Scarpa in questa nuova nottata di 451 intersezioni e sempre sulle note della colonna sonora che ormai è diventata un punto di riferimento, spero, almeno per me sicuramente, della trasmissione di questo spazio di sperimentazione, di ricerca nato in combinazione col progetto unitario 451, cui fa parte anche la trasmissione 451 Frammenti Sonori condotta da Max Macchia, che riprenderà, ve lo ricordo, mercoledì prossimo dalle 23 fino all'una circa. È saltata, diciamo, la programmazione delle prime due o tre puntate di gennaio per 451 Frammenti Sonori, ma appunto riparterà tra sei giorni, mentre l'altro spazio, che è questo 451 intersezioni, che va in onda sempre ogni giovedì sulle frequenze di Radio Città Fujiko dalla mezzanotte all'una, una e mezza circa, a seconda del tipo e del percorso sonoro che intraprendiamo ogni settimana. E vi ricordo ovviamente sempre anche il nostro blog No Blog, dove potrete trovare le vecchie trasmissioni e potete anche scaricarvelo o risentirvele, le scalette di tutte le puntate con il tema della puntata, anche qualche particolarità come nell'ultima puntata della scorsa settimana dedicata a Improvisated Music from Japan, dunque l'universo delirante e sperimentale della scena ad avanguardia giapponese. La seconda parte, abbiamo inserito anche un video molto interessante dentro il progetto collettivo Improvisated Music from Japan, parte seconda. Il nostro blog No Blog, dove appunto andrete a pescare tutte queste notizie se vi interessa, sia di 451 intersezioni che di 451 frammenti sonori, è 451frammentisonori.noblogs.org. Questo è il nostro indirizzo dove potrete trovare tutte le informazioni necessarie. E 451 intersezioni stasera, come già preannunciato giovedì scorso, siamo insomma obbligati nel senso buono della parola, nel senso che lo sentiamo e farà la stessa cosa, non credo, forse già mercoledì prossimo, ma sicuramente a breve, anche Max Macchia nello spazio 451 frammenti sonori, un omaggio, una puntata omaggio al grande compositore di musica contemporanea e sperimentale Pierre Boulez, che ci ha lasciato il 5 gennaio 2016, dunque da 15 giorni, musicista che è nato in Francia nel 26 marzo 1925, dunque musicista che comunque aveva raggiunto la considerevole età di 90 anni, è stato un grande compositore, oltre che direttore d'orchestra, anche saggista, ma è sicuramente stato uno dei grandi del Novecento, della musica contemporanea, attraversando oltretutto varie strade, un percorso anche abbastanza tortuoso, impegnativo e anche con grandi cambiamenti nell'atteggiamento e nella composizione, nella notazione musicale nei 90 anni di musica. Pierre Boulez, che ovviamente vogliamo omaggiare stasera con una puntata, saranno frammenti, perché le opere di Boulez sono veramente sterminate, si tratta di affrontare dagli anni 40, addirittura dai primi anni 40, quando era giovanissimo, fino a qualche veramente mese fa, composizioni dunque che hanno attraversato gran parte del Novecento e anche un pezzo degli anni zero di questi anni, dunque stiamo veramente a parlare di quasi 80 anni di musica, almeno 70 comunque. E Pierre Boulez stasera sarà il nostro ospite, ovviamente avendoci lasciato qualche giorno fa, ormai due settimane fa, ed è, credo anche sarà contento, e questo approfitto di questa occasione anche per ricordare il compagno amico che ha attraversato in parte lo spazio di 451 intersezioni, dato che l'idea di questa trasmissione è partita lo scorso anno, per continuare il percorso di un nostro amico compagno Pier Antonio Pezzinga, che curava il lunedì sera dalle 20 alle 21 il suo spazio intersezioni, dove sviluppava il suo percorso musicale, musica sperimentale d'avanguardia, vicinissimo anche alle musiche che mettiamo noi di 451, ovviamente più direzionato verso la musica di improvvisazione improvvisazione, il free jazz, il jazz, la musica contemporanea e anche la classica. Grande amante anche lui di Pierre Boulez, e dunque sarà un omaggio anche a Pier Antonio, un ricordo di Pier Antonio. Quest'anno abbiamo spostato l'orario della trasmissione perché l'anno scorso è stato un anno particolare, proprio in omaggio alla scomparsa di Pier Antonio, e invece da quest'anno 451 intersezioni avrà lo spazio del giovedì notte da mezzanotte all'una, una e mezza circa. E dunque partiamo con Pierre Boulez dicendo qualcosa, oltre alle notazioni legate alla sua nascita e alla sua morte, che la cosa particolare di Boulez è che ha iniziato in realtà a studiare matematica a Lione, ma poi successivamente abbandonò questo suo percorso di studi, anche se non completamente, nel senso che ha mantenuto sempre la passione e la sua attitudine verso la matematica, riportandolo ovviamente poi nella notazione musicale, e intraprese appunto gli studi musicali presso il Conservatorio di Parigi sotto la direzione del grande compositore Oliver Messiaen, che spesso abbiamo inserito anche nelle trasmissioni di 451. E poi approfondì la tecnica soprattutto dodecatafonica sotto la guida del grande René Leibowitz, a cui però successivamente, dopo qualche anno, giunse addirittura a degli scontri proprio personali e musicali, abbandonando dunque anche la notazione, la scrittura della musica tonale, per avvicinarsi sempre di più e a supportare sempre di più le opere di Messiaen. Nel 1943 dirige addirittura la prima assoluta di Les Souliers de Satine di Arthur Honegger al Teatro Nazionale dell'Opera di Comique di Parigi, e dunque già addirittura all'età di 18 anni, dunque veramente un grande anche da giovanissimo, iniziava dunque già a manifestare i primi segnali del grande compositore, il grande direttore d'orchestra che poi sviluppò negli anni a venire. E le primi lavori proprio anche compositivi nascono proprio nei primi anni 40, soprattutto sul piano proprio legati al pianoforte, ecco, scusate il gioco di parole perché rischiavo di dire sul piano del piano, ecco. E dunque una delle prime opere, delle sue composizioni pianistiche, datano tra il 1945 e 46, abbiamo proprio una delle primissime opere, il piano sonata numero 1 del 1946, dunque stiamo veramente lontani, esattamente, se non vado errato, 70 anni, e dunque veramente un'opera di 70 anni fa, ma ancora ricca di sperimentazione e di avanguardia nelle sue opere, che poi svilupperà. Stasera sentiremo molto le composizioni pianistiche, ma andremo anche a trovare le composizioni orchestrali e avremo anche una chicca con un elemento più squisitamente elettronico. Poi ripercorremo sicuramente nel corso della puntata di stasera alcuni elementi della storia di Pierre Boulez. Adesso abbiamo affrontato i primi anni fino agli anni 40, e poi affronteremo il periodo degli anni 50-60 fino agli anni 70-80 e fino ai giorni nostri. Intanto iniziamo con l'omaggio a Pierre Boulez con l'opera Piano Sonata numero 1 del 1946. Come dico al solito, buon ascolto. Thank you. E siamo ritornati in diretta, ovviamente abbiamo lasciato qualche secondo di pausa, di silenzio, più che doveroso dopo questa splendida composizione, questa opera, una delle primissime opere compositive pianistiche di Pierre Boulez, e ritornando a ripercorrere in parte il percorso storico, personale, compositivo del grande compositore francese, andiamo a affrontare, diciamo, dopo il 1946, eravamo già in fase di dopoguerra, ma diciamo alla fine degli anni 40, inizio anni 50, per Boulez diventa addirittura un punto di riferimento delle nuove avanguardie, delle nuove sperimentazioni dei giovani musicisti che cercavano di scollegarsi anche dal punto di vista musicale, in termini di immaginario, rispetto a tutta la musica che purtroppo era stata strumentalizzata dai regimi, dal regime nazista, dal periodo ovviamente della Seconda Guerra Mondiale. Proprio per questo si avvicina e frequenta la cosiddetta importantissima scuola di Darmstadt, che è nata proprio all'inizio degli anni, a fine degli anni 40, inizio anni 50 in Germania, impegnata proprio nella creazione di un nuovo linguaggio musicale che fosse internazionale, cosmopolita, e che non potesse essere strumentalizzati in ogni caso a fini propagandistici. In questo senso si avvicina a tanti musicisti tedeschi ma anche europei, e in particolar modo anche si avvicina a un primissimo, un giovane ancora, John Cage, con cui poi collaborerà successivamente nel corso degli anni delle sue sperimentazioni. Nel 1956 è una data importante perché dirige la prima assoluta di Zeitmasse di Karlheinz Stockhausen a Parigi, e successivamente inizia anche a collaborare con compositori che noi amiamo moltissimo, importantissimi italiani, ma che purtroppo l'Italia ha ben poco considerato, come Bruno Maderna, con cui lavora addirittura in una in un'opera nel 1958, e in più, sempre alla fine degli anni 50, inizio anni 60, collabora e incomincia anche a realizzare e a dirigere delle opere di Maurizio Kagel, in particolare Anagramma, altro autore che è passato attraverso 451, attraverso i percorsi che di volta in volta nel corso del nostro percorso radiofonico annuale sviluppiamo nei confronti della musica contemporanea. Dal 1960 inizia addirittura ad insegnare all'Accademia di Musica di Basilea, e al Festival di Salisburgo, sempre nel 60, debutta dirigendo un concerto con musica di Stockhausen e Webern. Nel 1963 dirige anche la prima assoluta di Konzernstück di Boris Blecher, e le varianti di Luigi Nono, altro grande compositore italiano, ben poco riconosciuto qua nel nostro paese, pochissimi lo conoscono, sia Maderna che Nono e tanti altri che hanno portato avanti le musiche d'avanguardia, le musiche contemporanee in Italia. In questo senso, negli anni 60, sempre più vicino anche in, come linea compositiva, come attitudine, allo stesso Stockhausen, a Nono, a Kagel, a Maderna, inizia a portare avanti dei lavori sempre più innovativi nell'ambito della musica contemporanea. In questo senso, tra il 64 e il 65, ad esempio, inizia a dirigere le prime assolute di Colors de la Cité Céleste di Messiaen, suo grande maestro, e porta avanti anche al Teatro La Fenice per la Biennale di Venezia, al 27esimo Festival Internazionale di Musica Contemporanea, porta avanti proprio Structures 2, sempre proprio composizione sua, che è stata eseguita in prima assoluta proprio alla Biennale di Venezia dallo stesso autore italiano Maderna. Dunque dirige opere altrui, di colleghi, musicisti contemporanei, e lui stesso viene diretto nelle prime assolute, nelle sue composizioni. Proprio in questo periodo andiamo a pescare un'opera del 1965, e cioè Structures pour deux pianos, ed è sempre una composizione articolata, frammentata, dove appunto due pianoforti si accavallano e costruiscono questa composizione che noi abbiamo estrapolato, essendo una composizione piuttosto lunga, di tre quarti d'ora, una parte, per inserirla nel percorso sonoro di omaggio al grande Pierre Boulez. Dunque caliamoci dopo, diciamo, 20 anni, dal 45 al 1965, e ritroviamo ancora Boulez con Structures pour deux pianos. Buon ascolto. Thank you. Siamo rientrati in diretta, purtroppo abbiamo dovuto in parte sfumare. Lo so che alle volte per uno che si è calato dentro completamente le astrazioni, le composizioni di Boulez, una bella mazzata, però d'altronde la trasmissione ha dei tempi e se dovevamo mandare nel corso di tutta la puntata l'intera composizione eravamo praticamente finiti, perché ci mancavano ancora ben 40, anzi forse no, mezz'ora ancora di composizione. Dunque insomma si tagliavano altre opere che stasera vogliamo frammentariamente comunque raccontare, raccontando un po' la sua storia a sommi capi. E ritornando al percorso, siamo negli anni 60, concentriamoci anche un po' sul cambiamento anche musicale che attraverserà e che ha attraversato Pierre Boulez, nel senso che nel suo sviluppo artistico, nelle sue avanguardie, nelle sue sperimentazioni, soprattutto del primo periodo, dalla fine degli anni 40 agli anni 50, fine ai primi 60, fondamentalmente Boulez si affiancò al grande compositore Karlheinz Stockhausen e al belga Henri Passet sotto questo provocatorio slogan: Schoenberg è morto, nel senso che ci fu un radicale tentativo di serializzare ogni fattore costitutivo della composizione, non soltanto nelle altezze ma anche nelle durate, nelle dinamiche, nei timbri, nei modi di attacco, portando fondamentalmente alle estreme conseguenze il puntillismo di Anton Webern. Negli anni 60 invece, che poi è il periodo che adesso stiamo trattando e che tratteremo anche nella prossima opera, dove ascolteremo Pierre Boulez non solo nella parte delle composizioni pianistiche, ma anche nelle composizioni legate alle orchestre, a grandi orchestre, in particolar modo nella prossima opera che andiamo a presentare. E negli anni 60, appunto, dicevo, Boulez ricoprì un ruolo fondamentale, importante nel ripensamento del linguaggio proprio dell'arte, recedendo, dunque distaccandosi in parte dal rigorismo giovanile e in parte mantenendo però ovviamente la nitidezza formale, che è una caratteristica anche tipicamente francese, verso una direzione sempre più spinta verso un'astrazione e una sperimentazione sempre più elevata, sempre più ardita. In questo senso si avvicina anche negli anni 60 moltissimo alla scena della musica aleatoria, al minimalismo e all'estetica proprio del silenzio, collegata alle opere del grande John Cage, con cui lui stesso collaborerà in più di un'occasione. L'aspetto proprio della musica aleatoria, che poi è ancora molto ben presente nella musica contemporanea, nella musica elettronica, nella musica sperimentale anche degli ultimi anni, di questi anni, in alcuni autori, in particolare quelli più vicini alla musica contemporanea, quelli anche più vicini a un certo stile legato al minimalismo. In questo senso, appunto, negli anni 60 Boulez incomincia anche ad avvicinarsi molto, seppur si avvicinerà molto maggiormente negli anni successivi, anche alla dimensione più legata alla musica elettronica, che stasera ascolteremo soltanto in minima parte, ma per accordi già presi lasceremo questa parte più elettronica nello spazio che Max Macchia ci regalerà in una delle prossime puntate di 451 frammenti sonori, che dedicherà lui stesso ancora una volta a Pierre Boulez. In questo senso, dunque, entrando negli anni 60, andiamo a presentare la prossima opera, una splendida opera per grande orchestra, Figures, Tubes e Prismes, composizioni che si accavallano tra il 63 e il 64 fino al 68. Come mai? Ecco, diciamo, è un periodo che va dal 63 al 1968, dunque prende 5 anni. È una caratteristica che ha sempre mantenuto fondamentalmente lo stesso Boulez, cioè il fatto che le sue composizioni rimanessero delle composizioni aperte, dove lui stesso, ma anche altri compositori o direttori d'orchestra, potessero interpretare, modificare ulteriormente nel corso del tempo le sue opere. E lo fece lui stesso in molte occasioni, anche successivamente, a distanza di 20 anni. E ancora prima di ascoltare questa opera, in questo caso ascolteremo la composizione totalmente, ricordo ancora Figures, Tubes e Prismes for Large Orchestra, dal 1963 al 1968. Una importante notazione da ricordare, che anche se arriviamo, diciamo, al 1970, ma così presenteremo anche l'altra opera successiva che è del 73, il presidente francese Pompidou chiese proprio a Boulez di creare e dirigere un istituto per l'esplorazione e lo sviluppo della musica moderna contemporanea, e così nacque proprio la famosissima IRCAM, di cui lui stesso rimase direttore fino al 1992. Dal 76 al 1995 Boulez tenne la cattedra, oltretutto, di invenzione tecnica e linguaggio della musica presso il prestigioso College de France. Dunque, questo è un altro elemento veramente molto importante. Nello stesso anno, cioè il 76, dirige la prima esecuzione assoluta completa a Parigi di Domains, Domains 1, Domains 2, di sua composizione. Scusate il mio francese, che si mischia alle volte col tedesco e l'inglese, ma non sono così poliglotta, conosco a malapena decentemente l'italiano e qualche scheggia d'inglese, il francese veramente mai, per cui insomma chiedo venia. Comunque, questo è un elemento, una data storica importante, la nascita dell'IRCAM, che fu fondamentale per la crescita della sperimentazione musicale in Francia, ma fu un laboratorio centrale per tutti grandi compositori di musica contemporanea, elettronica sperimentale degli anni del Novecento, dal 70 in poi di tutta Europa, e lui rimase, appunto, come dicevo, direttore fino al 1992, dal 70 dunque per ben 22 anni. A questo punto caliamoci ancora dentro Pierre Boulez con questa opera splendida, Figures, Tubes, Prismes for Large Orchestra. Buon ascolto. Thank you.